di Roma alcuni anni fa, in questo sesto libro dei dotti al banchetto, il tema è quanti erano gli schiavi. Gli interlocutori del dialogo portano la loro conoscenza, la loro esperienza. Uno di loro dice, ma nel mondo greco ci sono delle cifre impressionanti. Atene, luogo spirituale sommo che ci commuove continuamente, aveva nel 316 avanti Cristo, quando fu fatto un censimento da parte di un personaggio, un leader della città protetto dai Macedoni, che si chiamava Demetrio Falereo, fece un censimento nell'anno 316. Questo censimento dette un risultato: 20.000 cittadini di pieno diritto, perciò Constant, che vi ho letto all'inizio, dice 20.000 ateniesi andavano in piazza tutti i giorni, 10.000 stranieri residenti, cosiddetti meteci, i quali sono liberi come condizione civile, ma non partecipano alla vita politica della città, non ricoprono cariche pubbliche, però pagano magari un po' di quattrini per dare una mano alla città ed avere una benemerenza rispetto alla città, e 400.000 schiavi. La cifra è piuttosto imponente. Ha suscitato, come vi ho detto prima, grandi reazioni, ma non è possibile. Ma alcuni studiosi un po' buffamente hanno detto che saranno stati 40.000, pensando che all'epoca si usassero i numeri arabi, cosa che naturalmente non era né al tempo di Ateneo e tantomeno al tempo delle sue fonti. La fonte lui la indica è un cronista che si chiamava Ctesicle, del quale sappiamo poco. Perché questo divario così grande? Intanto facciamo subito un calcolo, che quando si dice 20.000 cittadini vuol dire maschi, adulti, in età militare, ognuno dei quali appartiene a una realtà, diciamo, familiare da moltiplicare per 4 mediamente, per cui non sono 20.000 ma saranno 80.000 le persone di condizione libera, maschile, femminile, infanti, eccetera, e questo già accorcia le distanze. Laddove gli schiavi vengono computati senza distinzioni, come gli animali d'altra parte, no? Quando si dice quante pecore ha ammazzato Aiace quando è impazzito, si contano tutte le pecore e ogni caput, o che sia di bestiame o che sia di un essere umano schiavo, conta per uno. Non a caso una parola greca che indica lo schiavo, andrapodon, è modellata su tetrapodon. Tetrapodon è l'animale con 4 gambe, l'andrapodon è schiavo ed è con 2 gambe, essendo antropomorfo. È brutale tutto questo, ma è caratteristico di quella realtà remota, arcaica, spietata a suo modo. 400.000. Lo scetticismo contro questa cifra è cominciato molto presto. Anche il grande filosofo inglese David Hume, che era soprattutto un erudito, uno storico, ha scritto sulla popolazione nel mondo antico. Il suo scritto in proposito ha avuto una grande fortuna ed è il primo che ha voluto ridurre quella cifra di moltissimo, dicendo che non era credibile. In realtà, nello stesso contesto, Ateneo cita molte altre cifre, parla di 500.000 schiavi dell'isola di Egina. Aggiungiamo che nello stesso contesto parla l'altro interlocutore, un signore romano molto ricco, il quale dice, ma a Roma ogni riccone, ogni personaggio molto benestante ha eserciti di schiavi. D'altra parte, l'oratore Lissia, un oratore che ha fatto il mestiere di avvocato, era un meteco, era di origine siciliana, ha fatto l'avvocato per campare, no? Per vendere ai clienti i suoi discorsi da pronunciare in tribunale. In un discorso per un suo cliente, un povero diavolo, gli fa dire, ma ad Atene non c'è un poveraccio che non abbia almeno uno schiavo. Aggiungiamo che Aristofane, nella commedia la più recente, l'ultima probabilmente da lui scritta e portata in teatro, Pluto, una commedia tutta sul problema della ingiustizia sociale, la ricchezza distribuita in modo assurdo, presenta un signore, il protagonista della commedia, che si chiama Cremilo, disperato perché è poverissimo, ce l'ha con la dea della ricchezza che non si fa vedere, è una commedia non eccelsa ma piuttosto efficace, ed è seguito da un paio di schiavi perlomeno. Se la prende con uno dei due, dice: tu sei il peggiore dei miei schiavi, quindi ce n'ha almeno più di uno, ed è colui che rappresenta la povertà estrema. Se si considera questo elemento, si capisce che quella cifra, 400.000, non è affatto inverosimile, perché accanto al povero Cremilo, che è un disgraziato poveraccio, c'è il ricchissimo Nietzsche, l'uomo più ricco di Atene, si diceva all'epoca, il quale appaltava migliaia di schiavi minatori per le miniere dell'Aurion. Abbiamo il saggio di Hume, ha avuto grande fortuna nel Novecento, un grandissimo studioso che ha fatto un eccellente commento all'opera di Tucidide, si chiamava Gomme, Arnold Wycombe Gomme, riprende i ragionamenti di Hume e dice: ma per carità, ha scritto un libretto negli anni 30, La popolazione dell'Attica. Stranamente questi signori si dimenticano alcune altre cifre. Noi sappiamo da una fonte completamente diversa da Ateneo che nell'anno 338, cioè 20 anni prima del censimento di cui abbiamo parlato, a seguito della battaglia tremenda di Cheronea, in cui la coalizione greca viene sconfitta in malo modo da Filippo il Macedone, padre di Alessandro Magno, nell'anno 338 ad Atene c'è il terrore che Filippo, avendo vinto questa battaglia, invada l'Attica, perché Cheronea è alle porte dell'Attica. E non era certamente un personaggio dolce nei comportamenti, il timore era che potesse procedere come poi suo figlio Alessandro procedette contro la città di Tebe, la distrusse completamente. Allora, nel panico del pericolo macedone, un oratore, un politico che era anche un grande avvocato, diciamo così, un logografo, che si chiamava Iperide, un po' più vecchio di Demostene, fa varare una proposta all'Assemblea Popolare di affrancare subito tutti gli schiavi minatori e agricoli per creare un'armata cospicua per fronteggiare la Macedonia. 150.000 schiavi minatori e agricoli. Quindi questa cifra così elevata, che procurò al povero Iperide poi un processo per illegalità, promosso da un capo democratico il quale vedeva nell'affrancamento degli schiavi un pericolo terribile, perché se io affranco gli schiavi creo tante bocche da sfamare, opelegis, ad Atene si distribuisce il grano ai cittadini, se i cittadini da 20.000 diventano 170.000 il grano non basta più, quindi i democratici sono quelli che odiano in modo particolare l'affrancamento degli schiavi. La proposta poi fu ritirata, lui si salvò dal processo per illegalità e soprattutto Filippo il Macedone ebbe l'idea lungimirante di non invadere l'Attica ma di fondare una lega, la lega stabilita a Corinto, molto da lui capeggiata naturalmente, in cui il testo dello statuto, diciamo, di questa lega panellenica da lui capeggiata conteneva due norme: non affrancare mai gli schiavi, non cancellare mai i debiti. E la parte conservatrice, diciamo, delle città greche che aderirono a questo patto era molto contenta soprattutto della prima parte, non cancellare i debiti, perché l'indebitamento era un fenomeno di massa. Abbiamo anche un altro numero e poi abbandoniamo i numeri e facciamo un salto indietro. Siamo partiti 316 avanti Cristo, 338, andiamo al 413 avanti Cristo, quasi un secolo prima. Siamo nel pieno della guerra tra Sparta e Atene. Sparta finalmente capisce che potrebbe avere la possibilità di vincere quella guerra se, anziché invadere l'Attica tutti gli anni e tornare indietro, si insediasse stabilmente in una parte dell'Attica, avendo un esercito di terra terribile, insostenibile rispetto a qualunque altro avversario. Gli ateniesi non avevano eserciti di terra adeguati. E loro occupano un pezzo di Attica, il demo comune di Decelea, sul confine con la Beozia. Appena avviene questo fatto, scappano dall'Attica 20.000 schiavi, operai specializzati, dice Tucidide, tecnitai, cioè elite del mondo schiavile, perché avevano delle competenze che noi metaforicamente diciamo operai specializzati. In un breve lasso di tempo, appena si determina questa novità sul piano militare, 20.000 scappano, il che crea un problema anche all'economia attica già abbastanza ammaccata. E questa cifra di per sé eloquente è perfettamente coerente con le altre che ho ricordato prima. E allora il fenomeno non è un fenomeno marginale, è un fenomeno centrale, e quindi con disagio siamo costretti ad ammettere che quei teorici entusiasti della schiavitù come Cobb, che ho ricordato prima, o come Friedrich Nietzsche, che ha teorizzato non solo un riferimento al passato ma al presente, che la grande produzione intellettuale esige che ci siano gli schiavi. Ecco, rispetto a queste posizioni brutali c'è da considerare due fenomeni, e con questo magari chiudiamo la nostra chiacchierata. Uno è che la critica al fenomeno stesso della dipendenza personale di un essere umano da un altro scaturisce all'interno stesso dell'elite dirigente della città antica, per merito di un grande movimento di pensiero, la sofistica, di cui si parla sempre con disappunto pensando a Platone e a tutto quello che Platone scrive in proposito, la quale sofistica, nella persona dei suoi principali esponenti, fa una grande scoperta, che cioè la natura umana, la physis, è uguale per tutti. Quello che poi nel 1791 scopriranno i bravi costituenti francesi, no? I diritti dell'uomo, l'uomo nasce e resta uguale, eccetera. Physis è più forte di nomos, la legge, la normativa stabilisce che tizio è schiavo e l'altro no, ma la natura non vede distinzione. Ed è significativo che un teorico di questa indistinzione tra gli esseri umani, respiriamo tutti col naso e con la bocca, e quindi il barbaro, il greco, lo schiavo, il libero sono indistinguibili, è un personaggio che si chiamava Antifonte, sofista, retore, oratore, tragediografo, uomo politico, il quale è il promotore del colpo di Stato oligarchico nell'Atene del 411, disistimatore del sistema democratico ateniese, il cui pilastro, come abbiamo detto più volte nel corso di queste nostre chiacchiere, è la separazione fra liberi e schiavi. I liberi sono tali perché c'è una massa di schiavi. Antifonte, teorico della indistinzione tra liberi e schiavi, critica la democrazia ateniese fondata sulla schiavitù. Molto dopo di lui, il concetto dell'unità del genere umano, che stenta ad affermarsi anche al tempo nostro in realtà, è il pensiero stoico, che parte da un'altra considerazione, non quella biologica di Antifonte, ma una, se vogliamo, filosofico-teorica. La concezione della divinità nel pensiero stoico è una concezione straordinaria che ha avuto una fortuna immensa fino a Spinoza, quindi molti secoli dopo rispetto a Seneca o a Zenone, che cioè la divinità è immanente, è in tutti gli esseri umani, e quindi gli esseri umani sono tutti partecipi del divino e quindi non possono che essere tra loro uguali, la distinzione giuridica viene meno. Ecco perché è tutto sommato deludente che una parte della storiografia moderna, soprattutto devo dire tedesco occidentale al tempo della separazione tra le due Germanie, calcasse la mano su una interpretazione ingannevole raccolta nella formula di un famoso storico tedesco che era stato nazista, poi diventò cristiano democratico, poi non so che altro, che si chiamava Josef Vogt, cui libro famosissimo è in tedesco Sklaverei und Humanität, cioè la schiavitù e la humanitas. La humanitas è la cifra del mondo antico greco-romano e ha ingentilito la schiavitù. Io credo che il guardiano degli schiavi a Capua, che si ribellarono sotto la guida di Spartaco avessero ben poco sentore della humanitas di Joseph Vogt.